avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io sono impegnato in questi giorni in dei lavori di ristrutturazione, capita a volte nella vita. Mi sto rendendo conto agli inizi delle operazioni che in realtà la parte più onerosa è quella della demolizione. Bisogna togliere il vecchio pavimento, togliere le vecchie mura, i vecchi intonaci, i vecchi rivestimenti, i vecchi sanitari, le vecchie tubature. E in realtà costa molto fare questo tipo di lavoro. Perché? Perché per una legge che trovo ottima, ogni materiale deve essere eliminato e smaltito in una certa maniera particolare, portato in un certo posto, impacchettato in un altro posto. Quindi la ditta che si occupa di questa ristrutturazione dice: guardi, dottore, costa tanto, però si renda conto che noi ogni piastrella dobbiamo pulirla dal cemento sotto che va portata in un posto, ogni pezzo del vecchio parquet va tolto dalla colla e vanno separate, via dicendo, è una cosa che costa molto. Io di buon grado mi accollo questo mio piccolo onere. Perché? Perché quei materiali ritornino ad essere, nel caso che lo siano, utili, siano riciclabili, siano riutilizzabili, e gli altri siano smaltiti nella maniera giusta, come prescrive appunto la legge, come prescrivono i dettami di chi di queste cose si intende, penso le abbia studiate. Però certo, questa mattina un po' di rodimento mi viene, è umano da questo punto di vista. Su una free press presa dalla metropolitana, leggo in particolare, è il titolo, vedo una cosa che mi ha un po' sorpreso. Roma, la capitale, dove sta il centro del governo del nostro paese, dove sono le più grandi istituzioni, i più grandi organi di controllo, dove sempre si va a fare tutte le pratiche. Nel Lungotevere Dante, che è una zona bella, c'è un bel parco verde, hanno scoperto una discarica abusiva lunga 600 metri. Voi immaginate un serpentone 600 metri, cioè la fotografia vista dall'alto è impressionante. C'è una grande fossa comune di 600 metri piena di frigoriferi. Sì, frigoriferi elettrodomestici, quelli che io sto pagando per smaltire, vengono ditte specializzate, se li prendono, li impacchettano e mi giurano sulla Bibbia che ne faranno il giusto smaltimento, in realtà venivano sotterrati in questa... adesso non voglio fare nomi specifici né dare oneri particolari, venivano sotterrati in questa sorta di fossa comune che, vista l'alto, è terrificante. 600 metri di cassonetti di cadaveri di frigoriferi, televisori, elettrodomestici che andavano normalmente smaltiti. Beh, questa mattina la domanda che vi faccio: qual è il vostro impegno personale per fare quello che ho appena elencato io, cioè di dare un contributo, se possibile, alla più lenta distruzione del pianeta, attenendosi ad alcune norme, alcune scritte e stabilite a norma di legge, altre date comunque dal buon senso? Di questo parleremo questa mattina. Per darvi qualche pensiero forte e gesto semplice per una nuova ecologia della vita quotidiana. 800 24 00 24. In teoria tutto è riciclabile. Rottami ferrosi, legno, alluminio, tessuti, plastica, vetro. E tutto può diventare altro, alleggerendo così la catena della raccolta dei rifiuti, che è sempre al limite del livello di guardia. Negli Stati Uniti ogni anno si gettano via 130 milioni di cellulari, in Europa 100 milioni. Eppure, per ogni milione di telefonini raccolti, si possono recuperare 37,5 kg d'oro, 386 kg d'argento, 16,5 kg di palladio e 17,6 kg di rame. Un tesoro. Secondo i calcoli dell'EPA, l'agenzia governativa degli Stati Uniti per la protezione ambientale, se gli americani riciclassero i cellulari che buttano, ogni anno riuscirebbero a risparmiare energia pari ai consumi di 24.000 abitazioni. Io non è che voglio fare il pulitino, il bravo, quello corretto. Sono un pessimo utilizzatore delle norme del buon senso, delle norme civili, delle norme proficue a mantenere in vita il nostro pianeta. Anzi, molte volte sorrido, prendo in giro le amiche che mettono da parte anche le caccole del naso per stare attente a non inquinare l'ambiente circostante. Però devo dire che a me ha fatto riflettere molto un libro che ho in mano adesso, è Basta Poco, di Antonio Galdo. Antonio Galdo, buongiorno, è qui accanto a me. Buongiorno. Edito da Einaudi. Antonio Galdo è un collega, un giornalista che ha dedicato appunto una parte cospicua della propria energia, della propria vita, soprattutto nel sito nonsprecare.it, a raccogliere documentazione e a darci norme proprio per fare quello che in realtà non hanno fatto in maniera anche criminosa i riciclatori di frigoriferi che li hanno sotterrati nella fossa comune lungo il Tevere. Allora, Antonio Galdo, dare qualche norma generale senza urtare la suscettibilità di chi non vuole essere assatanato dai soliti ecologisti, dai soliti maniaci, da quelli che ti fermano, che ti indicano col dito quando fai qualcosa di sbagliato, è una cosa molto complicata? No, credo che innanzitutto è importante non cadere, come dicevi, nelle ossessioni, perché una delle cose che fa peggio all'ambiente e ai nostri stili di vita è diventare degli ossessionati, cioè passare da ossessioni compulsive, gli acquisti, i consumi, l'energia, eccetera, a ossessioni francescane. Qui serve generalmente del buon senso e serve anche la capacità di conoscere le cose. Tu parlavi di questa notizia terribile che abbiamo appreso questa mattina. Pensate che stiamo parlando, dobbiamo aggiungerlo, di Villa Ada, cioè di un parco all'interno della capitale dove sono state scoperte 13 discariche. Discariche dove i cittadini romani gettano i loro elettrodomestici come se fossero dei sacchetti della spazzatura. Come dici una cosa, Antonio, tu che sei più esperto di me. Ecco, quando si crea una discarica nella capitale di Roma, Villa Ada è un posto iperfrequentato. Se ci vai la domenica poi non hai nemmeno da parcheggiare la macchina. Quando le persone vanno a depositare questa roba, faranno delle buche? Guardo qua, ci sarà voluto un escavatore per scavare 600 metri di fossa. No, fanno esattamente come i napoletani che lasciano interi pezzi degli arredi, degli elettrodomestici, dei mobili, delle loro case, sui marciapiedi, nelle strade. Il punto però è... Considerate, c'è un servizio gratuito di raccolta comunale. Assolutamente. Basta telefonare. Esiste, anche se devo dire non sempre funziona, ma esiste tutto dal punto di vista delle leggi, dei regolamenti e delle cosiddette strutture. Il punto è che è un po' come la raccolta differenziata. C'è da un lato una scarsa attitudine dei cittadini a comportamenti che io non definisco virtuosi, ma semplicemente normali. Dall'altro c'è una scarsa conoscenza, secondo me, delle opportunità che si creano con un gesto semplice, da qui il titolo del libro Basta Poco. Cioè, forse nessuno sa che da un televisore è possibile recuperare quasi il 90% del materiale che lo compone. Esistono paesi in Europa, cioè a casa nostra, che dal riciclo degli elettrodomestici, del materiale high-tech, producono quasi il 20-25% dell'energia in quel paese. Ho visto in California una cosa straordinaria che si sta diffondendo, sono dei chioschi per il riciclaggio di questi oggetti. Vai, consegni, viene fatto uno screening, un piccolo esame dell'oggetto e ti ricaricano una tessera con la quale puoi acquistare quello nuovo, oppure puoi ricevere dei soldi in contanti. Leggo nel tuo libro, che sembra paradossale ma allo stesso tempo conforta, che il Giappone, che è il più grande produttore di tecnologia, di materiali che poi vediamo buttati molte volte lungo le strade, è in realtà anche il più grande riciclatore. Sì, perché i giapponesi hanno una risorsa che stanno dimostrando anche in questa tragedia della catastrofe nucleare, ed è la disciplina, il senso civico. Se andate oggi sul sito Non Sprecare, scoprite che il governo giapponese ha varato da alcuni giorni una sorta di manifesto proprio all'insegna del non sprecare, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici, perché purtroppo i giapponesi scontano... Hanno un problema grosso adesso. Scontano le luci accese, i condizionatori, eccetera, cose che oggi evidentemente non possono più permettersi. Bene, se leggete i contenuti di quei manifesti, ci sono ripresi molti temi proprio del libro Basta Poco, nel senso che sono gesti semplici. Non utilizzate lo standby, evitatelo. Lo standby vale il 7-8% della bolletta elettrica. Spiego per è quella lucina verde rossa che rimane accesa di notte nei lettori di DVD, televisori, elettrodomestici vari. La notte è bello, sembra l'albero di Natale, però questo ha un prezzo. a un prezzo che, ripeto, è altissimo e si può eliminare semplicemente con quella che si chiama volgarmente la ciabatta, cioè un apparecchio semplice che costa 8 euro con il quale inserisci tutte le varie prese, premi un pulsante e vengono spente. Ancora, bisogna utilizzare certi elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie, in orari notturni dove il consumo di energia è minore. Bisogna, mi è molto piaciuto questa parte del manifesto del governo giapponese, che ripeto invito a leggere sul sito nosprecare.it, usiamo anche un po' meno la tecnologia e impariamo a recuperare quella grande, grandissima e piacevole arte della conversazione. Fermiamoci un attimo, sentiamo subito qualche ascoltatore. Ricordo, stiamo parlando del libro Basta Poco, un libro che spiega che in realtà basta poco per dare un contributo concreto al benessere del nostro pianeta. Certo, poi uno si guarda intorno e dice perché dovrei farlo proprio io? Questa è la chiave della giornata che stiamo affrontando, appunto, del pensiero stiamo affrontando questa mattina. Libro scritto da Antonio Galdo e sentiamo gli ascoltatori. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Io ho chiamato perché... ho sentito l'argomento, è un argomento veramente con molti problemi. Io sono un tecnico dell'edilizia, ma nel settore edile c'è un sistema per controllare che tutto venga gettato e conferito nelle discariche pubbliche. C'è il cosiddetto controllo dei rifiuti che l'ditta consegna al produttore, cioè a lei che fa i lavori. Certo, ma io infatti sto facendo tutto a norma, ecco, loro mi firmano poi dei fogli che queste cose le elimino, anche perché non voglio essere coinvolto. Se un domani trovano una tazza a gabinetto con sopra il mio DNA non vorrei essere coinvolto, capito? Esatto, però allora che succede? Quando l'impresa va a scaricare in discarica, il loro formulario, la copia di quello che ha rilasciato a lei, deve essere timbrato e firmato per accettazione con su scritto il peso e tutto quello che sono gli estremi del materiale che va gettato in discarica, e obbligatoriamente l'impresa glielo deve allegare alla fattura quando consegna la fattura. Questo chiaramente tranquillizza me. Però lei sa benissimo, è bastato vedere, che ne so, il film Gomorra di Saviano, che ci sono ditte specializzate, diciamo, noi diamo tutta la documentazione, poi in realtà le sotterravano sotto i giardinetti e sotto gli orti. Più di questo che può fare? Sì, no, niente, nulla, in assoluto. Io penso che le migliaia di frigoriferi sotterrati a Villada che hanno scoperto questa mattina dimostrano che in realtà qualcosa, ancora c'è qualche maglia un po' larga in questo meccanismo. Noi stiamo attenti a non buttare via la lampadina fulminata, se non nell'apposito contenitore, ma ci sono autotreni di materiale anche pericoloso che vengono sotterrati ovunque. Comunque grazie Maurizio, ci ha dato un'importante indicazione. Carlo. Sì, buongiorno. Eccomi. Buongiorno. Io penso che sia soprattutto una questione di educazione personale, per cui tutti noi dobbiamo comportarci in un certo modo. Appunto, da che io non sopporto quelli che gettano le cose così per strada o dai finestrini, tanto che camminano. Il massimo dell'esempio l'ho avuto in Giappone, dove vede circolare migliaia di persone, non esiste un cestino dei rifiuti, forse, ma dicevano per il terrorismo, e non c'è una carta per terra, io mi sono dovuto tenere in tasca le mie cartine. Mentre una cosa particolare che mi è successa a Venezia, che ho litigato con un turista che gli ho visto gettare un bicchiere di carta nel canale, e gli ho detto: ma cosa fa? Non vede, non c'è il cestino? E lui mi risponde: ah, io faccio quello che voglio. L'ha preso un altro, l'ha buttato dentro un altro bicchiere, e io non ci ho visto più, l'ho preso, l'ho spinto, l'ho buttato dentro nel canale anche lui. Sì, questo è divertente come cosa, ma in realtà presuppone dei rischi, perché anche a me è capitato sere fa di vedere dei pancabestia che buttavano intorno al panto delle bottiglie di vetro. Ma oddio, anche se ero abbastanza indignato dal gesto, mi sono ben guardato di dirgli: caro fratello, non fare questa cosa. Sai, uno mica poi alla fine può diventare il vigilante delle maleducazioni altrui. Però vorrei sentire un attimo Antonio Galdo rispetto a questa sorta di vigilanza militante che giustamente dice il nostro ascoltatore. Qual è il confine fra la cattiva educazione, contro la quale ci sono le nerbate sulle natiche o i sistemi consentiti dalla legge, ma qua occorre anche una cultura, quando entriamo in campi più specifici, come quello dell'eliminazione di alcuni rifiuti speciali, entriamo in campi in cui non basta la buona educazione, una persona ben educata può fare degli scempi comunque. Sì, dici bene, nel senso che qui bisogna puntare molto sull'investimento della formazione, quindi molto sulle scuole, sulle nuove generazioni. Diciamolo in modo anche un po' più esplicito, le nostre generazioni, noi siamo cinquantenni, quarantenni, sono un po', come dire, consumate, perché sono generazioni abituate a vivere con questi livelli di consumi, di sprechi e anche di cattive abitudini. Io sto facendo molti incontri nelle scuole, guarda caso alcuni di questi incontri hanno come slogan proprio la domanda che ponevi tu, cioè perché proprio io? Ti do tre rapidissime risposte. Primo, perché conviene, lo abbiamo visto a proposito degli elettrodomestici, cioè smaltire in modo corretto un frigorifero significa ridurre il peso dei rifiuti, quei rifiuti che ti arrivano fino sotto casa, e significa creare delle condizioni per produrre energia elettrica, quindi è una cosa che conviene. Secondo, è necessario, perché evidentemente è un po' come gli imballaggi, il 50% della spazzatura che abbiamo davanti casa è formata da imballaggi che sono molto spesso inutili, sono scatole e scatoloni che servono anche a contenere piccolissimi oggetti. E poi attenzione, c'è un elemento secondo me molto importante in questo circolo virtuoso. Perché proprio io? Perché è un modo per riconoscere l'altro, cioè è un modo per capire che la convivenza, l'ambiente e il rispetto dell'ambiente si poggia su una regola fondamentale, che tutti condividiamo questa cosa. Hai ragione, devo dire c'è una certa soddisfazione quando si mettono le bottiglie di plastica, ammesso che si trovi il contenitore giusto, nel buchetto del contenitore per le bottiglie di plastica, passano le persone, ti guardano e sorridono come per dire vedi sei dei nostri. Questo è un senso di soddisfazione, c'è una solidarietà nel piccolo impegno quotidiano, quindi si è anche gratificati. Sì, ma ti devo dire Gianluca che è importante questo. C'è un livello di sensibilità, di attenzione a queste cose che sta crescendo enormemente. Io lo vedo attraverso il termometro del sito Non Sprecare. Prima mi arrivavano continuamente segnalazioni di appunto sprechi, cattive gestioni, eccetera. Adesso la maggioranza delle segnalazioni sono gesti, comportamenti, casi che, ripeto, io non definisco virtuosi, ma semplicemente di buon senso. C'è un signore che con delle bottiglie di plastica ha costruito dei bellissimi mobili. Andateli a vedere, sono sul sito. Questo poi entra nella capacità personale di saper usare le mani. All'inizio il tuo libro parla di una facoltà fantastica in cui mi sono impegnato la giornata di ieri, che è la riparazione autonoma degli oggetti che si rompono. Molte volte evitiamo di mettere le mani praticamente in qualcosa che non funziona, pensiamo di sostituirlo la forma più facile, perché leghiamo a questo atto di riparare qualcosa di micragnoso, qualcosa di antico, qualcosa che viene soprattutto la nostra generazione, dai genitori che ci hanno veramente tartassato le gonadi con questo senso della guerra che incombeva su tutti i nostri consumi. In realtà è qualcosa che invece è molto attuale, molto moderno. Sì, c'è qualcosa di più grave rispetto a quello che dici. Abbiamo letteralmente cancellato nel nostro lessico la parola manutenzione. Questo è stato un enorme errore degli ultimi 30 anni, è un errore che paghiamo, è un errore che paghiamo ogni volta che entriamo in un negozio e vogliamo semplicemente riparare un elettrodomestico e ci viene risposto puntualmente le conviene comprarlo nuovo, è un errore che paghiamo sul sistema macroeconomico, perché ti segnalo che i 10 lavori del futuro individuati dalle università americane hanno tutti in comune una parola: manutenzione delle persone e delle cose. Ecco, come vedi, basta veramente poco per cambiare le cose. Questo mi conforta, vuol dire che non morirò di fame anche se dovessi smettere di fare il giornalista. Tra un istante, dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La percentuale di materiali di un elettrodomestico che si possono recuperare ormai sfiora il 90%. Il vetro degli schermi, per esempio, è utilizzato per fare dei servizi di bicchieri o piastrelle per il bagno e la cucina. Il rivestimento di plastica finisce nei nuovi schermi piatti. L'alluminio torna a nuova vita nei circuiti stampati. E il rame alimenta l'industria dei telefonini. Stiamo parlando di quanto basterebbe poco dare un contributo alla qualità della vita generale comune di tutti, prendendo spunto il brano che abbiamo letto, tratto appunto da questo libro, da Basta Poco, Pensieri Forti e Gesti Semplici per una nuova ecologia della vita quotidiana, edizione Einaudi, scritto da Antonio Galdo, giornalista e scrittore qui in studio con me. Alla domanda che ho posto all'inizio della trasmissione, perché dovrei farlo proprio io, risponde Domenico su Facebook, dice: comincio io perché sono più intelligente degli altri. Sentiamo Pietro. Pietro, buongiorno. Buongiorno, sono in onda? Certo. Buongiorno, io volevo segnalare in ordine sempre a questo problema, è leggermente stato l'argomento, comunque penso che ci siamo. In Germania, o perlomeno in alcuni land della Germania, io so che per risolvere il problema delle iniezioni dei cani, dei resti, insomma, del ciclo finale del metabolismo animale, sì, le loro hanno messo in piedi il sistema, hanno organizzato un censimento dei cani. Sì. E non ho dubbi che l'abbiano fatto, visto che sono sì, tedeschi sì. In modo ordinato e preciso. Certo, chiaro, figo. Quando ci sono, quando gli addetti in giro vedono le feci dei cani, le analizzano, sì. Risalgono al proprietario. Al DNA del cane. Al DNA del cane, e applicano una multa di 600 euro. Questo sì, mi sembra che fa, l'ho letto. Ci sia un costo sociale enorme da questo punto di vista. Ha una cosa, però ha un risultato. Però una bella soddisfazione, certo. Sono malato di politica, colpo il giornale. No, una bella soddisfazione, perché quando arriva a casa il sacchetto con la prova, e come penso la foto di un autovelox, arriverà una parte del corpo del reato con la prova che il DNA appartiene al cane. Quindi mi sembra comunque molto avanzato, però un po' fuori argomento. Non stiamo parlando. Guardi, io sto in un quartiere di Roma che in questa stagione comincia a essere veramente ottenebrato dai proprietari dei cani, però è un argomento leggermente laterale. Antonio Galdo, non c'entra con quello che stiamo dicendo molto la storia dei cani. No, se non in un clima generale di cattiva educazione. Che purtroppo appunto rientra nella categoria delle cattive abitudini. Devo dire che queste cattive abitudini, può sembrare strano, ma ahimè è così, molto spesso si sovrappongono con i quartieri cosiddetti benestanti delle città. È impressionante. Anche a Napoli c'è una statistica, ci sono quartieri dove la raccolta differenziata arriva al 60-70% e sono dei quartieri popolari. Nei quartieri della cosiddetta borghesia della Napoli bene, la raccolta differenziata è ancora. Io farei fare un giretto per Viale Mazzini verso sera per vedere cosa si trova davanti ai cassonetti di un quartiere mediamente ben abitato. Andiamo avanti con le telefonate. Caterina. Sì, buongiorno. Io sono una persona che si può riutilizza tutto e poi passo quasi per tirchia perché cerco proprio di riutilizzare tutto. Allora, una cosa che faccio è che quando pulisco la verdura, quell'acqua la tengo e poi la metto nei radiatori dei caloriferi per umidificare l'acqua, cioè l'aria, oppure innaffio le piante. E un'altra cosa che faccio è che quando vado in macchina, chiaramente non in autostrada, nelle statali o comunque strade dove me lo posso permettere, appena c'è un avvallamento, la discesa, metto in folle così la così macchina si schianta se non gli fanno bene i freni. Cosa? No, dico così, se i freni non funzionano si schianta lei. Sì, no, ma sono abbastanza anche attenta. Fortunata. A questo, voglio dire, non supero i 60. Guardi, lei è incommiabile, si guadagnerà il paradiso. Poi mi ricordo onestamente una volta un'intervista che fece Fulco Pratesi, il direttore, il presidente del WWF, che ancora se ci penso vengono i sensi di stomaco, che si lavava una volta a settimana, che non si cambiava mai le mutande, che non lavava i piatti. Il risparmio va bene, ma ormai esistono delle norme accettate di vivere comune. L'acqua con cui ha bollito il cavolo fiore rimessa nel termosifone non so quanto faccia bene all'ecosistema familiare. Comunque sentiamo Antonio Galdo. Beh, anche perché io insisto molto su questo punto e non bisogna essere maniaci. E nel libro Basta Poco dedico a questo tema un capitolo intero. Guai alle ossessioni, non siate maniaci rispetto a questi temi, finite come gli americani, dove ho scoperto che sono aumentati i divorzi per eco-incompatibilità. E ovviamente, siccome gli americani traducono tutto in business, ci sono degli avvocati specialisti nelle cause per eco-incompatibilità, cause matrimoniali, il che significa semplicemente quelli che non si lavano per non sprecare sapone. Il marito lascia il rubinetto aperto mentre si lava i denti, la moglie protesta la prima, la seconda volta, la terza volta va dall'avvocato per divorziare. Ecco, questo può sembrare come dire, un paradosso, ma è la deriva di questa forma di ossessione. Tu sei saggio, quando diventa ossessione si annulla ogni positiva maniera di operare. Però l'ascoltatrice parlava dell'acqua. Ecco, guardate, ve lo dico con molta semplicità. L'acqua è uno dei più grandi scandali del nostro paese. Nel libro Basta Poco trovate le storie raccontate sul campo delle guerre che si combattono nel mondo per l'acqua. Sappiate che il conflitto medio orientale, cioè il conflitto dal quale poi nasce il terrorismo islamico, nasce l'instabilità del mondo, è un conflitto le cui origini riguardano i controlli delle fonti di rifornimento dell'acqua. Noi, guarda caso, in Italia siamo tra i più grandi spreconi del mondo di acqua, e la sprechiamo in due modi: con un sistema pubblico di reti idriche attraverso il quale il 50% dell'acqua che passa per le condutture si perde. Sono dei colabrodi. Colabrodi. Ma lo sprechiamo anche in un altro modo. Abbiamo introdotto nelle nostre case una sottocultura in base alla quale l'acqua del rubinetto non è buona, fa male. Questa è una grande sciocchezza. Sul sito Non Sprecare trovate i riferimenti, i collegamenti città per città di analisi che riguardano la potabilità dell'acqua. Tant'è vero questo che siamo, guardate come... Oddio, l'acqua del mio rubinetto è così piena di calcare che se metto un bicchiere per una settimana diventa pieno di calcestruzzo. Questo a Roma ce l'abbiamo tutti, questo problema. Basta mettere un filtro, un semplice filtro, e puoi tranquillamente utilizzarla. Ma guarda come torniamo al perché proprio io. Se impariamo con semplicità, senza ossessioni, a utilizzare con una maggiore accortezza l'acqua del rubinetto, evitiamo quella cosa un po' assurda in base alla quale gli italiani sono i terzi consumatori al mondo, pensate, di acqua minerale. Prima di noi ci sono solo il Messico, che è un paese notoriamente inquinato, e l'Arabia Saudita, che di cui conosciamo, esatto, le mancanze a monte del sistema. Ecco, basterebbe poco, pochissimo, per evitare un consumo e uno spreco che a questo punto possiamo considerare un lusso che non possiamo più permetterci. Molte volte però anche le acque minerali sono acque semplicemente un po' ripulite, quest'acqua che sgorgono dalla fonte. Sono la stessa acqua che arriva sul rubinetto. Ritrattata, un po' ritrattata. Inserita in una bottiglia di plastica che poi, come racconto nel libro Basta Poco, è complicatissimo smaltire. Andrea, buongiorno. Andrea. Io mi occupo di manutenzione di apparecchiature elettroniche. Quello che volevo dire è che c'è un problema a monte, cioè sono le stesse case produttrici che impediscono di fare la manutenzione. Verissimo. Perché offrono dei pezzi di ricambio a dei prezzi che vanno oltre alcune volte il prezzo dell'oggetto equivalente. Ci fai un esempio per capire di che materiali si tratta, senza fare nomi di marca naturalmente? No. Un esempio banale, un UPS, un gruppo di continuità, quegli apparecchietti da mettere vicino al computer che permettono di farlo funzionare. Di non perdere il lavoro, sì. Per non perdere il lavoro. Se deve cambiare le batterie a uno di questi apparecchietti, gli costa quanto, se non di più, prenderne uno nuovo. Quando mi basterebbe cambiare delle batterie, che presumo il costo alla fonte sia stato ben ammortizzato nella vendita, nel costo complessivo dell'apparecchio. Perché se devo ricomprare delle batterie in sostituzione mi deve costare quanto, se non di più, di un apparecchio nuovo? E queste sono logiche diciamo di profitto, perché loro conviene di più così. Ma guardate, Antonio, guardate come la catena dello spreco ha una sua logica, poi, che risponde evidentemente anche a un sistema economico. Allora, il cellulare che evidentemente non siamo in grado di riparare, perché le stesse aziende che lo producono evidentemente impongono il continuo ricambio, e poi quel cellulare che finisce, lo abbiamo raccontato, lo abbiamo detto prima, no? In America 130 milioni di cellulari che finiscono nelle varie sotto forma di discariche, fogne. Io ho visto a Londra, addirittura c'è stata un'indagine del governo per andare a scoprire quanti sono i cellulari finiti nelle fogne della città di Londra. Lo buttano via. Lo buttano così, come se fosse un avanzo. Molte volte c'è anche l'idea di cancellare prove che sono rimaste in quel telefono, nella poca capacità. Ma sì, forse anche l'idea di evitare, diciamo, un'indagine familiare, ma c'è l'idea che il cellulare in fondo è un oggetto qualsiasi, è un usegetta, ecco, bravo, è un prodotto usegetta. Ci sono usegetta, Dio volesse facesse gli usegetta, così alla fine almeno sarebbero di cartone e sarebbe meno difficile comunque eliminarli. Un'altra cosa, ad esempio, è ancora in linea l'ascoltatore, le stampanti ad esempio, costa più ricomprare un set completo di cartucce a inchiostro colorato che una stampante. Una stampante oggi con 50 euro uno se la compra, quelle di casa così, e le cartucce più o meno costano la stessa cosa. E corrisponde, Andrea, questo alla realtà? Sì, sì, sì, glielo confermo benissimo. Il business di queste case, delle case produttrici, è vendere le cartucce. Grazie, la Andrea. Sì. Non serve più, cioè, è un accessorio. Qui sta la rivoluzione. Ogni 5-6 mesi. 800-24-00-24, devo interrompervi drasticamente, devo dare la linea un istante all'informazione del traffico, riprendiamo tra un po'. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. In Inghilterra finiscono ogni anno nella spazzatura 6,7 milioni di tonnellate di generi alimentari, equivalenti a una spesa di 10 miliardi di sterline, tra i quali 484 milioni di vasetti di yogurt, 370 milioni di banane e 2,6 miliardi di fette di pane. Un'abitudine collettiva, uno stile di vita, che non è molto diversa da quella di altri paesi del mondo occidentale. In Italia, ad esempio, c'è un fenomeno impressionante. Dei 240 milioni di vassoi serviti nelle corsie degli ospedali per colazioni, pranzi e cene, oltre il 45% finisce nei rifiuti. Eppure, basterebbe qualche attenzione in più per evitare questo scandalo e migliorare i bilanci della sanità, sempre in rosso. In un ospedale di 600 posti letto, infatti, il cibo sprecato vale una spesa pari a 140.000 euro all'anno. Sono quelle cifre che uno ascolta, uno dice ma pensa a te, guarda che schifo, e poi si dimentica, poi la cosa passa, poi vengono presi da un ciclo da cui non si esce, ma anche nelle migliori delle ipotesi in cui uno è cosciente, uno si pone il problema, in cui uno cerca di trasmettere qualcosa di quello che ha capito ai propri figli, poi c'è un meccanismo che ci stritola, che ci porta via, che ci induce comunque a entrare in questa follia. Antonio Galdo ha scritto Basta poco, pensieri forti e gesti semplici per una nuova ecologia della vita quotidiana, e Audi, e i brani che abbiamo mandato sono presi dal suo libro. Mi dicevi, Antonio, nella pausa, che rispetto all'automobile è uno dei luoghi di maggiore spreco, ma non tanto perché compriamo l'automobile, facciamo bene che teniamo in piedi la nostra industria automobilistica, ma perché la usiamo male, la usiamo poco. La usiamo male nel senso che un terzo dei nostri spostamenti avviene su percorsi inferiori ai 2 chilometri. È la cattiva abitudine che a Roma conosciamo bene, certo, di arrivare con la macchina davanti a un negozio, sotto la casa di un amico, in pieno centro, accumulare multe, inventarsi falsi permessi di falsi invalidi, pagare parcheggi, pagare evidentemente anche una serie di costi aggiuntivi, compreso quello del carburante. Tutto questo per evitare che cosa? Di rinunciare alla macchina laddove non è necessario. Perché i romani però soffrono di un radical coattismo, di cui non soffrono, ad esempio, i milanesi. Hanno vergogna di andare nei mezzi pubblici, come si tolgono le pezze dal culo di una generazione. Non vogliono entrare negli autobus, nelle metropolitane. Io ho dovuto fare atti di violenza per costringere amici, amiche, colleghi, ma prendiamo la metro. C'ho il 5, no, io nella metro non ci metto piede. Questo è un lavoro da psichiatri ed è materia di antropologia, quindi tu conosci assolutamente. Io devo dire che alcune zone di Roma... Ci stanno solo stranieri nelle metro di Roma. Vai a Milano, arrivo, professori universitari, giornalisti. No, ecco. A Roma solo stranieri, non so perché. Sul sito Non Sprecare, per esempio, i milanesi che mi scrivono, è interessante questo, perché i milanesi mi scrivono per ricordarmi il loro sistema di trasporti, e lì per esempio a Milano tutta la città, tutto il centro della città si gira tranquillamente in metropolitana, e tutta la città più o meno utilizza quel tipo di strumento o in tram. A Roma hai ragione, io all'Eur per esempio arrivo solo con la metropolitana, e devo dire che non è un mezzo, è un mezzo affollatissimo, ma non di una certa Roma, che tra l'altro sono gli stessi cittadini che poi appunto arrivano con l'auto sotto il negozio in pieno centro storico, hanno un permesso di falso invalido fasullo, e sono gli stessi romani che si lamentano laddove, francamente, se c'è una cosa che funziona ormai a Roma nel trasporto pubblico sono i collegamenti del centro. C'è un magnifico pulmino che fa il giro, sì, di tutto il centro storico, elettrico, gratuito. Non vedo perché uno debba arrivare con la macchina in centro storico. Perché piuttosto... il 4 romano si sente depauperato di uno status, ecco, se entra, se entra dentro, ecco, così. Ed ecco, se la prendono con me se vogliono, ma è così. Ed ecco perché basta veramente poco per modificare questi stili di vita. Piuttosto il problema si pone per chi vive nella cosiddetta periferia, e lì siamo veramente, abbiamo costruito una città mostruosa. Sentiamo qualche ascoltatore. Stefano. Buongiorno. Eccomi. Allora, secondo me modificare le abitudini che sono ormai radicate nelle persone da 10, 20, 30, 40 anni non è molto facile. Ci forse c'è una leva che può aiutare nell'accorciare i tempi, cioè far pagare le cose. Mia madre, per esempio, portava indietro al supermercato le bottiglie vuote dell'acqua minerale perché c'erano 5 lire di deposito. Ah, mi ricordo, 5... certo, i vuoti, bisogna portare indietro, esatto, anche del latte, di tutto. Deposito. Allora, lei si immagini se oggi ci mettessero un deposito di 1 euro sulle bottiglie di birra? Le garantisco io che il primo che butta via la bottiglia di birra non fa in tempo a toccare il pavimento, che qualcun altro la va a raccogliere e la porta indietro al bar. Beh, io vedo in questo una delle attività che di cui si fingono tutti non vedere più intensa da parte dei Rom nella capitale, quella di girare ormai con dei carrellini della spesa, vuotare i cassonetti e rivendere via via le cose che vengono buttate nei cassonetti. Quindi un margine di recupero sarebbe senz'altro. Grazie. Carmelo. Sì, buongiorno. Eccomi. Niente, volevo intervenire, diciamo, visto che trattate l'argomento raccolti differenziata dei rifiuti. Ieri sera casualmente mi trovavano a festa di compleanno e un mio parente da un paio di metri a questa parte ha cambiato mestiere. Praticamente fa la manutenzione nei forni che servono per incenerire la spazzatura. Gli inceneritori, dove praticamente dove va? Diciamo che da Como non va molto lontano, tipo a Verbania. Ma quelli grandi, giganteschi che si vedono passando, esatto, lungo... quelli che diciamo raggiungono temperature elevatissime. Quando sono spenti, difatti ho lavorato anche ieri, poi è arrivato diciamo sul tardi a casa, e si parlava appunto della spazzatura. Mi ha detto che è rimasto a bocca aperta da quello che può vedere. Ha detto: non è possibile che la gente fa la raccolta differenziata e poi praticamente bruciano di tutto, la plastica, televisori, la carta, il cartone, escluso il vetro, mi ha detto. Il vetro a quanto pare non viene messo nel calderone, diciamo. Quindi diciamo è differenziata fino a un certo punto, è un calderone e buttano tutto dentro. La realtà molte volte supera la fantasia, in quanto ci dicono fate la bella raccolta differenziata, fate i bravi cittadini. Poi va tutto nello stesso... La destinazione di tutto ciò che viene raccolto in maniera differenziata va a finire tutto nello stesso, diciamo, calderone. Le posso dire, io adesso non voglio entrare in termini, ci porterebbero lontano, qualche sospetto l'ho avuto quando vedo poi raccogliere quello che viene messo nei cassonetti della raccolta differenziata. Molte volte è lo stesso camioncino che butta tutto dentro. Renata. Buongiorno, mi riferivo quando lei ha parlato del DNA sui sanitari. Sì. Io mi sono ritrovati i carabinieri in ufficio mentre facevo la ristrutturazione della mia casa, perché hanno ritrovato lungo un margine golenale i ferramenti che erano stati smaltiti. Insomma. E le hanno preso le impronte per vedere se era stata lei? No, hanno fatto l'accertamento. Io abito in paesi piccoli, i carabinieri sono andati negli uffici tecnici a vedere chi aveva in corso ristrutturazione della casa. Era la sua, l'ha riconosciuta, c'è stato un riconoscimento? Certo. Io poi gli ho mandati. È stato umiliante, però, che le prendessero. Eh? È stato umiliante che le prendessero le misure per vedere se corrispondeva. No, questo no, però il discorso è questo, che assieme ai serramenti che loro, che la gente, che la ditta... Però lo so, ma quello che dicevo prima, hanno ragione, ne risponde anche lei, anche se lei non ha tutta la documentazione a posto. No, il discorso è questo l'hanno fatto non a fine, non alla fine della ristrutturazione, durante la ristrutturazione. Beh, certo. E buttando via i serramenti erano rimasti... È chiaro, signora, è chiaro, devo chiuderla perché abbiamo capito perfettamente. Antonio Galdo, una battuta, siamo proprio in sigla, sulla questione appunto del riciclo attento anche da parte di chi dovrebbe occuparsene. Ma la battuta è che appunto basta poco qui... questi, io ricordo anche a casa mia, all'inizio la raccolta differenziata ci faceva paura, poi è diventato un gesto di una tale semplicità e di una tale ordinaria amministrazione, per cui oggi evidentemente basta poco per non buttare una cicca per terra, basta poco per rendersi conto che un marciapiede pulito è un bene comune, un bene della collettività e non di un singolo cittadino. Allora, ci sembra chiaro in conclusione, poi ci ritorneremo su questo argomento, mi sembra molto articolato, anche c'è un grande interesse, che forse la cosa più importante è farsi portatori di una sapienza, di un pensiero costante e contaminare gli altri se possibile con quello che noi abbiamo nel nostro piccolo, capito? Perché appunto basta poco. Grazie Antonio Galdo, a domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.